Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra, l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, e devo subito deludere un ascoltatore che mi dice, o meglio parzialmente deludere, che mi dice: spero che anche oggi non parlerai solo di scuola e dedicherai qualche minuto in più alla finanza, alla borsa e ai mercati, se sei in grado di farlo. Non so se sono in grado di farlo, sicuramente parleremo di mercati, quindi la conforto, perché oggi i mercati sono tutti molto ben intonati: Milano più 2,60, Parigi più 3,20, Francoforte più 2,90, Londra più 1,80, grazie agli Stati Uniti. Il Dow Jones infatti sta guadagnando il 3,31%. Che cosa è successo? La buona notizia di oggi riguarda gli Stati Uniti e riguarda il dato sulla disoccupazione, perché così come commentammo quando il coronavirus esplose anche negli Stati Uniti, la rapidità con cui si era passati da 220.000 richieste, 230.000 richieste di disoccupazione, di sussidi a settimana, a 2 milioni e poi a 3 milioni, altrettanto velocemente l'economia americana sta ricreando posti di lavoro a maggio. Sono stati creati 2.600.000 posti di lavoro, che hanno fatto scendere il tasso di disoccupazione di un punto e mezzo, dal 14,7 al 13,3%. Faccio notare però che a febbraio il tasso di disoccupazione americano era al 3,5%, quindi la disoccupazione americana resta a quasi 4 volte il livello di febbraio, quindi è quadruplicata. Però il dato è migliore delle attese, addirittura si scommetteva su un aumento ulteriore della disoccupazione fino al 19%, e questo permette a Wall Street di guadagnare, perché evidentemente si scommette in una ripresa economica forse più veloce del previsto, è una scommessa. Dall'altro però avvantaggia anche le borse europee, che continuano comunque a guadagnare anche sulla decisione della Banca Centrale Europea di ieri di aumentare di 600 miliardi, soprattutto dal prossimo anno, la dotazione del fondo PIPE, quindi l'acquisto di titoli di Stato. Farò contento l'ascoltatore, immagino, visto che parleremo di borse, ma non solo per la giornata di oggi, ma per un'analisi che oggi è presente su Sole 24 Ore a firma di Mario Longo, che evidenzia uno scollamento abbastanza chiaro tra andamento economico e preoccupazione sull'economia e andamento dei mercati finanziari. Faccio notare che in questo momento il FTSE MIB è a 20.140 punti, quindi è sopra i 20.000 punti. Deludo invece l'ascoltatore, perché parleremo anche di scuola, lo faremo dopo, perché ieri si è tenuto appunto il tavolo allargato ai vari soggetti, che è finito in serata. Non voglio anticipare nulla, insomma, alcune delle indicazioni le avete già viste. Per quello che riguarda gli altri temi, oltre che a un punto, non sarà un approfondimento, ma un punto sulla scuola e su come riaprirà, e su una vicenda a mio avviso allucinante, e sui mercati finanziari, ci occuperemo anche di un'altra cosa che deve riaprire prima di settembre, e mi riferisco al mondo alberghiero e soprattutto degli stabilimenti balneari. Ci sono i dati oggi infatti sugli hotel che sono riusciti a riaprire a maggio. Ora chiaro che gli hotel non sono stati chiusi necessariamente, però a maggio il dato è ancora solo il 40% degli alberghi aperti, con, secondo Federalberghi, 118.000 posti di lavoro in meno, tant'è che il presidente di Federalberghi dice: la primavera è andata in fumo e l'estate comunque è a rischio. Questo si collega da un lato con la richiesta di cui parlava anche il nostro GR24 di riapertura delle frontiere, che è arrivata da Italia e Spagna, e ha detto stiamo facendo un lavoro, ha detto il ministro Di Maio, paese per paese, non certo per spiegare quanto è bella l'Italia, perché tutti lo sanno, ma per far capire che si può venire in sicurezza. Crediamo che il D-Day del turismo europeo possa essere il 15 giugno, e dicevo, anche di questo parleremo. E infine un ultimo tema, e mi riferisco alle nuove regole per e i nuovi moduli, ahimè, per chiedere i prestiti alle banche, quindi il decreto liquidità, perché la legge che ha convertito il decreto liquidità l'ha anche modificato in parte, dovrebbe essere in vigore da lunedì prossimo, e tra le novità vi è l'autocertificazione rafforzata, che è importante perché solleva le banche dalle responsabilità penali nel caso, lo dico per farmi capire, nel caso un domani venisse contestato che hanno prestato soldi a una società che poi è fallita e quindi hanno contribuito, diciamo, non hanno valutato correttamente il merito di credito. E però ci saranno dei nuovi moduli di cui non si conoscono con esattezza i dettagli. Analogamente è aumentato a 30.000 euro il prestito garantito al 100% dallo Stato. 30.000 euro vuol dire che è il tetto massimo erogabile, ma deve essere il 25% del fatturato, quindi sale la quota complessiva. C'è poi la possibilità di allungare la durata del prestito non più fino a 6 anni ma fino a un massimo di 10 anni. Abbiamo anche una lettera di un ascoltatore che con nome e cognome della banca, chiederemo spiegazioni. Allora, questi temi di cui tratteremo, devo dire, oggi è venerdì, alcuni mi scrivono della poco invidiabile classifica. Non ho nessuna non stiamo tornando con la nuova con la poco invidiabile classifica, però in apertura, proprio per non dimenticare così le vecchie buone abitudini, vorrei leggere una cosa e poi andiamo al resto delle notizie. Qualcuno mi scrive: ormai gli ordini di scuderia sono parlare male del governo. Guardi, io non sono un cavallo, ho capito? Non sono neanche un fantino, quindi non so cosa siano gli ordini di scuderia, caro Carlo. Critico il governo quando non mi convince, facciamo il plauso quando mi convince, dopodiché evidentemente lei frequenta le sale corse, la sala corsa. Allora, dicevo, per non dimenticare le buone abitudini, come la poco invidiabile classifica, sentite questo. Allora, le indagini hanno già partite. Il GIP, la vicenda viene a Saronno. Allora, una dirigente sanitaria, però voglio dare nome e cognome, si chiama Sara Veneziano, è stata arrestata, e con lei stamattina, assieme ad Andrea Arnaboldi, imprenditore di Barlassina, quindi provincia di Monza e Brianza. Allora, che cosa è successo? Il GIP che ha coordinato l'inchiesta ha parlato di avidità e sconcertante cinismo. Il reato contestato è peculato in concorso e poi l'uomo dovrà rispondere anche di autoriciclaggio. Ma il tema non è il reato in sé, è il tipo di reato e quando è avvenuto. In pieno Covid, in piena emergenza Covid, quando i reparti anche dell'ospedale di Saronno erano in carenza di forniture, cosa facevano Sara Veneziano e Andrea Arnaboldi? Dirottavano, sottraevano il materiale necessario a intubare i pazienti per rivenderlo insieme, appunto lei lo sottraeva e Andrea Arnaboldi lo rivendeva. Si trattava prevalentemente di lame e batterie per laringoscopio, che sono indispensabili per intubare i malati. Mi dispiace per i pazienti, nelle intercettazioni si legge, però... ho detto mi dispiace, non ne ho, chi le chiedeva di lame, batterie per laringoscopio, invece lei le destinava, appunto, le fregava e le vendeva 250 euro l'una, vista la carenza, sì dai, così ci faremo una bella mangiata, un bel regalo e ci compriamo la borsa di Prada in questo caso non ha nessuna responsabilità. E diceva mi dispiace per i pazienti, però così va. Allora, e non venivano deliberatamente consegnate ai reparti di anestesia che ne avevano necessità, per essere invece restituite al titolare dell'azienda fornitrice, che le rivendeva lucrando in debiti profitti. Poi i dispositivi venivano imballati in anonimi scatoloni per farli uscire dall'ospedale e poi rivenduti dalla società dell'uomo con regolare fattura. Io dico una cosa, come si chiama, Sara Veneziano e Andrea Arnaboldi. Io, sapete che su questo, me lo sapevate già per la classifica, sono non per le pene corporali, che non mi fa niente, ma non, diciamo, i domiciliari, altre cose. Se tutto, mi sembra che gli elementi siano abbastanza chiari, ma aspettiamo la sentenza, ci mancherebbe. Poi la punizione non potrebbe essere un bel servizio sociale, ma di quelli seri e duri, laddove dovessero svilupparsi i focolai Covid in tutta Italia. Prendi la Veneziano e Arnaboldi, li sposti a seconda dove c'è un focolaio, nella speranza non che si infettino, ci mancherebbe, anche perché se si dovessero infettare verrebbe voglia di dire beh, a questo punto non ci sono lame e batterie per laringoscopio per intubarti, ma non vogliamo essere così cattivi, semplicemente mandateli laddove c'è bisogno. Chiaro che non avendo nessuna preparazione dovranno fare i lavori meno qualificati, con il massimo rispetto per chi già li fa, e dateli delle pene esemplari dal punto di vista dei servizi sociali, perché due personaggi del genere, non so neanche come definire, non meritano poi i domiciliari o di finire a carico dello Stato, devono fare servizi sociali, cara Sara Veneziano, altro che le borse di Prada, e Andrea Annaboldi. Andiamo con il resto delle notizie. Allora, vabbè, tutti guariti i pazienti nell'Hubei, la regione, la provincia cinese, dove il capoluogo Wuhan, dove si è scatenata l'epidemia. Rimangono sotto osservazione 217 persone asintomatiche. Questi dati diffusi dalla Cina, su cui ho sempre detto non ho nessun tipo di personale, li ritengo personalmente del tutto non attendibili. Comunque andiamo avanti sugli Stati Uniti, abbiamo già detto sulla disoccupazione, sull'andamento delle borse. Per quello che riguarda invece la Brexit, non mi sembra un tema così, insomma, che ci può preoccupare più di tanto. Abbiamo altri problemi in Europa, però il commissario Michel Barnier ha detto alla fine di questa settimana di negoziati la mia responsabilità come negoziatore, di dire la verità, non ci sono stati progressi significativi. Il Regno Unito si rifiuta di prolungare il periodo di transizione, e quindi se non vi sarà una decisione in merito, lascerà il mercato unico il Regno Unito e l'Unione Doganale in meno di 7 mesi. E anche il Regno Unito, con il suo negoziatore che si chiama David Frost, registra toni positivi ma solo progressi limitati. Per quello che riguarda invece i temi che ci interessano di più, quindi il Recovery Fund, allora la Commissione Europea è ottimista su un accordo, e il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, che non è certo uno considerato appunto uno spendaccione, ha detto: stiamo proponendo uno strumento temporaneo, e la ragione per cui c'è forte enfasi sulle sovvenzioni, quindi non sui prestiti, è che i paesi con un alto debito saranno i beneficiari netti di questo supporto. E il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno ha detto: sono certo che troveremo dei punti in comune. Dunque, la Germania, al di là del piano annunciato ieri da Angela Merkel, che io posso criticare la Germania quanto volete, ma il vantaggio di quel piano, 130 miliardi, è far ripartire anche la domanda interna tedesca, con un vantaggio anche per l'export italiano. E quello che io invidio molto ai tedeschi in questo caso è la velocità con cui si realizzano queste cose. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, si attende un crollo del PIL tedesco del 7%, a cui seguirà una ripresa del 3% nel 2021 e del 3,8% nel 2022. Quindi anche per la Germania le stime sono di un ritorno al PIL del 2019, non prima del 2022. Però ha detto: attenzione, nelle prospettive più negative il PIL tedesco potrebbe crollare del 10%. C'è stato, dico purtroppo, un calo record degli ordini attivi nelle fabbriche tedesche ad aprile, questo per via del lockdown, meno 26%. Le frontiere, ne parleremo delle frontiere, lo faremo quando adesso affronteremo, qualcuno me lo sta chiedendo, i dati, il tema sul turismo. Vorrei invece andare i dati diffusi oggi dal Ministero Economia e Finanza sulle entrate tributarie: meno 4,4% nei primi 4 mesi, e quindi 5 miliardi e 600 milioni di euro in meno, soprattutto per l'effetto del decreto legge del 17 marzo, il Cura Italia, che ha infatti a marzo il gettito è calato del 7%, ad aprile del 22%. Questo perché il Cura Italia ha disposto il rinvio dei versamenti tributari e contributivi per le attività di impresa, arte, professione fiscalmente domiciliate nelle zone colpite dall'emergenza. Ancora, la Banca d'Italia dice che dal Cura Italia e dal DL Rilancio quindi dei due decreti, quello da 23 miliardi e quello da 55 miliardi, dovrebbero arrivare 2 punti percentuali di PIL di aiuto, valutabile secondo i moltiplicatori tradizionali. Ha confermato invece una stima di un crollo del PIL italiano tra il 9% e il 13%, quindi se va bene perdiamo 2 punti in più della Germania, se va male anche 5 e 6, io spero appunto che siano solo 2 punti, visto che la Germania, la Bundesbank stima a meno 7 e 3 in Germania quest'anno, la Banca d'Italia stima a meno 9 e 2 e forse meno 13. E poi la Banca d'Italia ha detto che la moratoria sul credito e le garanzie sui nuovi prestiti, ma ne parleremo più avanti, sono essenziali a scongiurare la crisi di liquidità e quindi un crack di società e imprese non dovuto all'andamento del mercato, ma appunto alla mancanza temporanea di liquidità. Le moratorie al fondo di garanzia sono, scusatemi, le domande al fondo di garanzia sono ormai 523.000 per 24 miliardi e mezzo, di questo 520.400 sono per finanziamenti a 25.000 euro, con 9 miliardi di, e 700 milioni di importo finanziato. Ancora l'Istat oggi fotografa le vendite al dettaglio d'aprile, caduta verticale ovvio, meno 10,5%. Io non so se continuare a darsi i dati ad aprile, era tutto chiuso tranne quelli alimentari. Le vendite dei beni non alimentari meno 24%, capito? E invece una flessione dovuta appunto alla chiusura delle attività, però il ribasso appunto sul confronto annuo è del 26,3%. Lì l'export, adesso aspetteremo, me lo chiede qualcuno i dati, invece c'è un exploit dell'e-commerce più 27%, vendite azzerate per calzature e abiti, ripeto, meno 90%, mobili meno 83%, abbigliamento meno 83%, giochi meno 82%, era tutto chiuso, era difficile andare a acquistare calzature, mobili, abbigliamento. È chiaro che la differenza la fa probabilmente l'e-commerce, cioè si poteva acquistare solo online, ecco perché il più 27%. Ancora sulla fase 3, Patuanelli dice le risorse devono arrivare subito, e bisogna riflettere su incentivi nella filiera dell'auto, automotive, e poi si continua a ragionare di un'estensione del super bonus, quello al 110% per le misure antisismiche e l'efficientamento energetico, estendendolo anche alle seconde case, lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro sugli emendamenti arrivati al DL Rilancio. Lo hanno presentato 5 Stelle, PD e Italia Viva, appunto per estendere alle seconde case non di lusso, quindi si potrà utilizzare al massimo per 2 unità immobiliari, salvo nelle parti comuni dei condomini. Poi altre segnalo un intervento di Andrea Orlando, vice segretario del PD, questa mattina con Maria Latella e Simone Spezia sul reddito di cittadinanza. Ha detto: ha evitato scontri sociali, ma serve una riflessione. Io credo che noi abbiamo piuttosto il problema fondamentale in questo momento di affrontare la questione della formazione professionale, delle politiche attive e passive del lavoro, perché siamo in una situazione nella quale noi saremmo chiamati a rivedere completamente, diciamo, l'allocazione della forza lavoro, delle competenze, e questo sforzo non è oggi sostenuto da strumenti adeguati. Siamo rimasti a metà strada tra il vecchio sistema, diciamo, pre-AMPAL, quello che dovrebbe funzionare dal combinato disposto tra AMPAL e reddito di cittadinanza, ma che abbiamo visto non funziona assolutamente. Se qualcuno ne avesse ancora dei dubbi, è sufficiente leggere l'intervista di ieri del presidente dell'AMPAL, che francamente è sconcertante. Quindi noi, secondo me, dobbiamo partire da lì. cioè noi dobbiamo partire da una revisione. Il reddito di cittadinanza è servito a evitare probabilmente anche scontri sociali in questa pandemia, ma non è servito a rimettere nel mondo del lavoro persone che erano state espulse. E da questo punto di vista io credo che questo sia il punto di partenza della riflessione. Sì, l'intervista a cui faceva riferimento Orlando l'abbiamo citata anche noi ieri, quella di Mimmo Parisi, l'ideatore del reddito di cittadinanza, che ha detto: ma non è vero, i navigator lavorano anche da casa. Parisi, per favore, su, non è un programma di comiche questo, e prendono anche i 600 euro. Io invece continuo a ribadire, al di là che lo dica Orlando o no, che il reddito di cittadinanza è servito molto come strumento di welfare, e adesso abbiamo anche il reddito di emergenza che può arrivare fino a 850 euro. Non serve assolutamente a nulla come politica attiva del lavoro, cioè a trovare lavoro. Ho visto che diceva adesso quante erano le imprese, ieri abbiamo fatto il calcolo che ogni navigator doveva chiamare al giorno, mille al giorno, erano 10 al giorno per... Comunque, adesso riprendo il dato di ieri, riprendo l'intervista derivante di Parisi. Comunque, andiamo avanti, perché mi dispiace deludere a questo punto l'ascoltatore, ma il tema scuola è l'ultima chiosa prima di andare su meteo e pubblicità e poi parlare invece del tema del turismo e degli albergatori. Qui ci sono due o tre cosette da dire. La prima, l'incontro ieri, il tavolo allargato. Allora, il ministro Azzolina ha detto: sulla scuola stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi di euro. Vabbè, ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per edilizia scolastica leggera. E la norma contenuta nel decreto scuola favorirà i lavori dando ai sindaci il potere di intervenire. Sì, erano 10 chiamate al giorno per 100 giorni, adesso ricordo il calcolo. Comunque, andiamo avanti sui navighetto, andiamo avanti con l'Azzolina. E poi c'è una frase: il documento del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico sulle scuole, sarà valutato rispetto all'andamento epidemiologico. E già qui inizia l'esoterismo. Cosa vuol dire sarà valutato rispetto all'andamento? Cioè che quello che hanno detto potrebbe non essere modificato nella sua interpretazione, che il CTS, che il Comitato Tecnico Scientifico, ha detto se l'evoluzione della pandemia, dell'epidemia andrà in un altro modo? Oltre alle mascherine ci sarà la possibilità di usare la visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacustici. Va bene. Il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, sta valutando anche la possibilità di compartimentare i banchi con divisioni anche per garantire maggior sicurezza. Guardate, il tema qui non è, a mio avviso, l'idea di avere plexiglass nelle scuole. La vera bestialità è lo sta valutando, è il gerundio che sta, diciamo, affliggendo, per usare un altro di gerundio, il nostro governo, no? In maniera, a mio avviso, pericolosa. Sta valutando, ma come? Siamo a giugno e tu stai valutando, devi dirci se bisogna mettere plexiglass o no. No, sta valutando. E quando hai intenzione di dirci se il plexiglass va messo nelle scuole, visto che non è che proprio lo montiamo in due secondi sto plexiglass, ho visto quello che hanno fatto i bar e i ristoranti, e lo sta valutando che mi manda in bestia. Poi il ministro Azzolina dice: si potrà, visto che ci sarà l'autonomia scolastica, daremo grande autonomia, si potrà valutare se far lezione anche il sabato, o potranno decidere le scuole nella loro autonomia, e anche mettere in piedi unità orarie diverse, lezioni anche in musei, cinema, teatri, al rientro, al lavoro per il rientro di tutti in sicurezza, va bene. Ma cosa vuol dire rientro, cioè cinema, musei, teatri, 40 minuti o no? Mattina e pomeriggio no? Avete deciso quindi solo la mattina, ma di 40 minuti magari in un teatro, in un museo? Chiedo. Oppure si fa 40 minuti tutti perché tanto c'è il plexiglass? E poi vabbè, il Covid è l'opportunità per una scuola nuova. Intanto il Covid per ora, ministro, per favore, lasciamo stare la retorica, non c'ho voglia. Il Covid è stata l'occasione per lasciare la scuola all'ultimo posto dei temi da affrontare e dei temi da risolvere. Ci sono due. Allora, intanto sentiamo Francesco Sinopoli. Io ho criticato molto i sindacati, che penso che abbiano delle grosse responsabilità in questi mesi, però devo dire che sono d'accordo con quello che ha detto il segretario generale della CGIL, lavoratori della conoscenza, come si chiamano, che tutto il mondo, insegnanti, tutto il mondo, non sono solo gli insegnanti, anche che ruota attorno alla scuola, Francesco Sinopoli, a effetto giorno, ha detto lui stesso, quando ci ha parlato di visiere, barriere, di plexiglass, la Zolina, siamo rimasti sconcertati. Ieri si è emersa la consapevolezza da parte di tutti gli attori della necessità di ripartire con la scuola a settembre e farlo però sulla base di investimenti che riteniamo indispensabili se vogliamo garantire il distanziamento, peraltro investimenti che servirebbero alla scuola anche a prescindere dal distanziamento fisico. L'idea di avere delle classi più adeguate ai bisogni di apprendimento non è nuova, è un'esigenza della scuola italiana. Devo dire che la conclusione della ministra ha lasciato stupiti anche noi. Stiamo dicendo da alcune settimane che c'è un ritardo del governo rispetto alla scuola. Questa discussione che è stata fatta ieri per la prima volta si potesse fare anche un mese e mezzo fa. Sul come riaprire la scuola evidentemente si poteva essere più pronti. Se la soluzione è il plexiglass, le confermo, siamo rimasti molto stupiti. La valutazione che noi facciamo è che il governo non abbia previsto alcun tipo di stanziamento aggiuntivo per la riapertura delle scuole. Le risorse del decreto rilancio non sono minimamente sufficienti. Allora, la tocco piano, vediamo così se va bene. Ministro Azzolina, se non è in grado di dirci come riaprire la scuola, faccia una cortesia, si dimetta. Non possiamo stare ad aspettare ancora a inizio giugno l'ipotesi del plexiglass. Non sto dicendo che non va bene, ma sto CTS che cosa ha fatto in questi tre mesi mentre noi stavamo barricati in casa? Avrà analizzato come mantenere le distanze, mettere in atto tutti i provvedimenti di distanziamento fisico, quant'altro? Se c'era il plexiglass, se c'è bisogno del plexiglass, lo potevate dire un mese fa. Avete deciso 40 minuti mattina, pomeriggio, che cosa? Ma poi dico, non è colpa magari della Azzolina, uno può anche non essere in grado, io magari non sarei assolutamente in grado di fare quel lavoro lì, va bene, prendi e ti dimetti. Anche perché, allora, guardate che questa è bellissima, intanto in Veneto le classi terze e quarte delle scuole professionali rientrano in classe per un'intera settimana per preparare al meglio gli esami di qualifica e l'esame per il diploma. 6.200 studenti, 5.400 allievi del terzo ordinario, 508. A Bergamo, nel frattempo, in un liceo hanno già collocato i plexiglass in aula senza aspettare il CTS e altri acronimi, tra cui il liceo artistico Giacomo e Pio Manzù. Hanno collocato dei divisori di plexiglass attorno a ciascun banco. Siamo pronti per gli esami per il rientro a settembre. C'è un'altra cosa che resta per me un mistero, e cioè perché ministro Azzolina e diciamo e anche il comitato tecnico scientifico non guardino a quello che stanno facendo Francia e Spagna, non perché siano meglio di noi, ma perché sono già partite, eh? Allora vai a guardare cosa sta capitando in Francia e Spagna, che hanno diviso il paese in aree gialle e aree verdi, che problemi hanno avuto, come hanno gestito, magari a seconda non è che la scuola sia tutto un moloch, un conto sono le elementari, le scuole per l'infanzia, un conto sono le medie, poi le superiori. Guardate i modelli degli altri, ma com'è che gli altri hanno tutti aperto e qui stiamo ancora a sentir parlare, si sta valutando il plexiglass, ma sapete dove lo metterai il plexiglass? Io. E poi siamo alle comiche finali, visto che qualcuno dice che è un programma comico. Allora, una maestra, si chiama Francesca, ha pensato, da quando hanno riaperto i parchi, che la scuola è soprattutto socialità. Cosa ha fatto? Lei insegna alla scuola dell'infanzia a Prato, e si chiama Francesca Sivieri. Io sono d'accordo con Antonio Polito che chiede oggi il cavalierato su Corriere della Sera per Francesca Sivieri. Allora, ha deciso di portare i bambini al parco, ha selezionato un po' di libri dedicati all'infanzia e ha avvertito i genitori e ha iniziato a incontrare i piccoli alunni al parco, già chiaramente mantenendo la giusta distanza con la mascherina d'ordinanza. Sapete come hanno reagito sti geni dei sindacalisti della scuola? Il segretario CIS del settore scuola di Prato, Claudio Gaudio de che? Gaudio, ma si vergogni di quello che ha detto. Ha detto che l'iniziativa dell'insegnante è estemporanea e corre il rischio di far passare da vagabonde le altre colleghe, e poi sta presa in barba ogni regola di sicurezza. Cioè, sostanzialmente il problema di questa insegnante è che rischia di far passare per diciamo fannullone le altre colleghe. È questo? Adesso vedo che i sindacati della scuola hanno appena annunciato lo sciopero l'8 perché quella di la riunione di ieri della ministra Azzolina è stata inconcludente. Vabbè, su una cosa siamo d'accordo con i sindacati. Premier Conte, non so chi, o PD, 5 Stelle, fate qualcosa. Perché qua a me non interessa, non sono un membro del governo, ma il calo di consenso che si registra sul governo è dovuto sia all'economia ma anche a come non state gestendo la scuola. Evidentemente il ministro Azzolina, che si è trovata lì per caso, nel senso che si è dimesso il ministro precedente, non è in grado, va bene, non è una colpa, basta, non si può andare avanti in questo modo. Poi sto genio di sindacalista lo vorrei incontrare, Claudio Gaudio, mal comune, mezzo. Meteo, pubblicità e poi andiamo con alberghi e stabilimenti balneari. Focus Economia. Sette e 43 minuti, sì, l'ho già detto, adesso voglio parlare di altro. L'ascoltatore che mi scrive: vacci tu a fare il ministro, prendi il cat di voti e poi parla e smettila. Ma io infatti ho detto che non sarei in grado di fare il ministro della scuola e che se dovessi vedere che non sono in grado, uno prende e si dimette, no? O si fa aiutare da qualcuno o guarda i modelli degli altri, visto che qua c'è qualcuno bravo a copiare, eh? Allora, copia i modelli degli altri, no? Stavolta copiare è lecito ed è anche virtuoso, visto che Francia, Spagna, ma non parliamo di Germania, la Gran Bretagna, tutte le scuole sono aperte in Europa tranne un paese. Sarà sfiga, cosa volete che vi dica? La sfiga. Allora, le spiagge e gli alberghi, i dati di Federalberghi. Solo 40% degli hotel a maggio, 118.000 posti di lavoro a rischio, con l'allarme lanciato dal presidente Federalberghi in bocca. Però qui vorrei, poi c'è tutto il tema invece delle riaperture delle frontiere, adesso vi arrivo invece. Perché? Perché su questo sta lavorando il ministro Di Maio, il ministro Di Maio, e dovrebbe essere il 15, l'intenzione di Francia e Spagna, quello che hanno chiesto Francia e Spagna, buonanotte, Spagna e Italia, è di arrivare al 15 giugno come data di riapertura. Lo hanno chiesto il presidente del Consiglio Conte e quello spagnolo Sanchez, hanno inviato una lettera al presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. E poi dice l'Italia, ha detto Di Maio, è aperta ai paesi europei, ora vogliamo reciprocità. Il governo tedesco dal 15 giugno non metterà più nessuna allerta nei confronti dei viaggi per l'Italia. E il ministro degli esteri tedesco, ha detto Di Maio, ha comunicato l'intenzione di riaprire i flussi verso il 15 di giugno. Poi c'è la mitica Austria, se qualcuno va in vacanza in Austria quest'anno, capito, è da levargli il passaporto. Tra Kurz, che non ne vuole sapere di un'Europa solidale, ma poi adesso la ministra austriaca per gli affari europei Caroline Edt-Stadler ha prospettato un'apertura del confine con l'Alto Adige e in altre regioni italiane virtuose entro giugno. E lo ha fatto in un'intervista al quotidiano bolzanino Il Dolomiten, che è di lingua tedesca. Allora, io dico alla ministra degli esteri Edt-Stadler, guardi che non è lei che decide quali parti del paese Italia possono andare in Austria, eh? Anche perché ho capito che c'è un grande amore verso la comunità tedesca dell'Alto Adige, ma le faccio notare che voi dovete aprire subito alla Basilicata, subito alla Calabria, anche all'Umbria, anche al Molise, cioè le regioni che hanno meno contagi dovete aprirle subito. E quindi, per favore, voglio capire come fate ad aprire i confini dall'Austria alla Basilicata senza metterci di mezzo altre regioni, ma questo me lo spiegherà lei, col teletrasporto, col paracadutismo, come vuole lei. Però se dovete aprire le regioni che hanno meno contagi, le sto fornendo l'elenco, sono già 9 quelle che hanno zero contagi, fate un bel Innsbruck Basilicata o Innsbruck Matera, senza passare però per Veneto, Emilia, Umbria, Toscana, insomma, vediamo, interessante l'esperimento austriaco, magari col tunnel. La Svizzera apre il 15 giugno il confine con l'Italia e va bene, così, infatti nulla da dire su questo. Vorrei far sentire invece l'intervento, cosa ha dichiarato il ministro Di Maio proprio nei rapporti con l'Austria. Dobbiamo avere un approccio europeo nello spirito europeo. Proprio in questi giorni i contatti con il collega Alexander Schallenberg sono continui. Abbiamo modo proprio in questi giorni di poter confrontare anche i dati in modo tale da permettere al loro Ministero della Salute e al loro governo di poter avere contezza dei numeri in Italia. In questo momento, rispetto agli ultimi 7 giorni, i numeri sono di 3 nuove infezioni ogni 100.000 abitanti, quindi sono dati che sono molto molto positivi e incoraggianti e che ci consentono di poter affrontare, ci ha consentito di poter affrontare la riapertura il 3 giugno. E questo per quello che riguarda il rapporto con l'Austria. A mio avviso anche l'Unione Europea poteva farsi sentire in maniera un pochino più decisa, ma chi se ne frega del mio giudizio. Allora, l'estate al mare, più o meno. Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano Balneari, FIPE Confcommercio, di nuovo buonasera. Buonasera a voi. Mamma mia, la sento molto giù, Capacchione. Cosa sono? No. No, mamma mia, adesso ho capito che l'estate sarà. Però andiamoci un attimo. Cattivo tempo. Ho capito, cattivo tempo, si figuri qua. Sì. Allora, dunque, le regole per le spiagge libere e private. Allora, occorre prenotare l'accesso agli stabilimenti anche online. Utilizzare la cartellonistica locandina con le regole comportamentali. Regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge. Garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Controllare la temperatura corporea, ove possibile, del personale dei bagnanti, vietare qualunque forma di aggregazione, quindi balli, feste, eventi sociali, degustazioni, buffet, interdire gli eventi musicali, pulire con regolarità almeno giornaliere le varie superfici, non trattare in alcun caso spiagge con prodotti biocidi, scusate la mia ignoranza, dotare i bagnanti di disinfettanti per l'igiene delle mani, fornire disinfettanti e dispositivi adeguati al personale. Ora, vorrei capire, la vostra preoccupazione è questa oppure condividete l'allarme dei sindaci che dovranno invece garantire il rispetto di queste regole nelle spiagge libere? Ma guardi, quest'anno tutti quanti, sia i comuni che i titolari di stabilimento balneare, dovranno cercare di coniugare il bisogno di socialità con l'esigenza di sicurezza. Questa è una sfida che riguarda tutti, che riguarda il nostro paese. I titolari di stabilimento balneare naturalmente sono più attrezzati, perché gli stabilimenti balneari sono dei luoghi sicuri, chiusi, quindi c'è anche una maggiore possibilità da parte degli stabilimenti balneari di assicurare quanto ci viene richiesto dalle autorità sanitarie. Che cosa preoccupa maggiormente noi? Preoccupa soprattutto il tracciamento, la necessità di avere un registro. Guardi, non riguarda tanto gli stagionali, coloro che fanno gli abbonamenti, ma per i giornalieri mantenere un registro di presenze, tracciare chi frequenta i nostri stabilimenti balneari, costituisce naturalmente un onere importante. Teniamo presente anche l'esigenza della privacy dei nostri utenti. Poi notiamo che c'è una grande confusione nelle varie regioni sulle modalità del tracciamento e anche sugli oneri che i turisti dovranno osservare, dovranno avere. In alcune regioni è sufficiente l'indicazione della propria presenza sul suolo regionale, in altre regioni è previsto addirittura che il turista debba fare menzione delle persone che incontra, dei luoghi in cui si trova. Questo naturalmente potrebbe anche spaventare non solo i turisti stranieri, ma potrebbe spaventare i turisti italiani che si spostano da una regione all'altra. Il rischio è che ci sia una grande confusione che naturalmente non aiuta nessuno. Sì, dico, una menzione di tutte le persone che incontro, poi dipende anche dalla memoria di ognuno. Senta, il tema dei pass che poi è decaduto, però visto che la Sardegna di Solinas continua a insistere per avere forme di garanzia, diciamo così. Il tema del patentino sanitario, vi convinceva, perché insomma abbiamo visto anche molte preoccupazioni nei suoi colleghi siciliani e sardi, oltre che di altre regioni, perché già il turismo straniero quest'anno sarà, diciamo così, debole, vediamo come. Se viene a mancare anche il turismo tipicamente italiano, che di solito è da nord a sud per quello che riguarda la stagione balneare, lì sono dolori. Bisogna evitare di spaventare già la popolazione italiana, cioè la domanda estera è quasi del tutto inesistente, attualmente inesistente, le previsioni non sono certamente rosee. La domanda interna è una domanda già impoverita, ma soprattutto impaurita. Se poi noi erigiamo delle barriere, questo naturalmente non aiuta. Turismo significa movimento, spostamento, tutto ciò che inibisce gli spostamenti naturalmente va contro l'esigenza di sviluppare in questo momento il turismo, che ha una funzione non solo da un punto di vista economico, ma una funzione anche di umore, di iniettare ottimismo, di mettere alle spalle un'esperienza dolorosa come quella che abbiamo vissuto. Allora tutto ciò che impedisce gli spostamenti naturalmente è negativo. Poi dobbiamo stare attenti anche ad una concorrenza tra regioni, nel senso che ci possono essere anche delle regioni che abbassano il livello di guardia rispetto ad altre per favorire un flusso turistico. Ecco perché sarebbe necessario, doveroso, veramente una regia nazionale che attualmente manca, cioè stesse regole per l'intero territorio italiano. Mi scusi, un'ultima domanda però, io ho visto alcuni suoi associati anche essere molto perplessi, perché sappiamo che la spiaggia di Rimini, quindi con una banalità totale, la spiaggia di Riccione, dell'Adriatico, sono molto diverse dalla costiera amalfitana. Ora, il distanziamento non rischia di essere molto fattibile in alcuni casi e decretare la chiusura dello stabilimento in altri? Ma questo sicuramente. Noi abbiamo un'orografia italiana che, come ha detto lei, è molto diversa. Noi abbiamo appunto le spiagge romagnole molto profonde, le spiagge del Tirreno poco profonde, ma anche nelle spiagge romagnole noi vediamo regole diverse: 18 metri quadrati a Rimini, 12 metri quadrati a Riccione. Cioè, questo è bellissimo. Per un turista. Perché il Covid cambia a seconda che sia Rimini o Riccione, lo sa. Poi c'è Cervia. Ecco. Quindi ecco. Dice che addirittura tra Rimini e Riccione cambiano i metri quadri di distanza? Sì, sì. Bella questa. Cioè ecco, in un caso 12, nell'altro, mi scusi? 18. Beh, non è poco, Ma per differenza. Questo le dicevo, alcune disposizioni sono francamente incomprensibili per noi, figuriamoci per gli utenti o un turista straniero. Ecco la necessità di regole identiche su tutta la costa italiana e soprattutto semplici, comprensibili. Questo proprio per favorire gli spostamenti che abbiamo detto essere l'anima del turismo. Allora, sì, anch'io non posso che chiedere appunto regole simili, anche perché, ragazzi, manca solo farci concorrenza tra Rimini e Riccione sulla distanza da un ombrellone all'altro, figurati nord, sud, est, ovest, centro, cioè qua. Uno farà una mappa, avrà bisogno del navigator, dei navigator, per sapere qual è la spiaggia più consona a lui. Speriamo Capacchione, grazie anche al presidente del sindacato italiano Balneari, FIPE, Confcommercio. Adesso andiamo su GR24, poi commentiamo la borsa e soprattutto l'andamento di queste settimane di borsa, completamente scollegato ai dati economici, e vediamo anche invece le nuove regole, i nuovi moduli per chiedere prestiti alle banche. Chiudo sulla scuola con una battuta, che mi ha fatto battuta, purtroppo è vero, col massimo rispetto per tutti gli insegnanti che in questi mesi hanno fatto didattica a distanza mettendoci grande impegno, mi ha scritto un ascoltatore: mia figlia in terza media, insegnante di inglese, ha fatto due lezioni in tre mesi in cui una ha presentato il suo gatto, il famoso gatto sul tavolo. E come no, the cat is on the table, the GR24 is ready. Quando arriva la cassa integrazione, dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori, che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24. in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Focus Economia. :07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, sono usciti come ogni giorno a quest'ora i dati della Protezione Civile, li leggo assieme a voi brevemente. Allora, i positivi sono 1453 in meno, un dato un po' buono, meno 3,78%, meglio anche di ieri. I guariti sono 1886 in più, anche questo il dato è buono, superiore a quello di ieri, più 1,2%. In terapia intensiva sono 22 persone in meno, meno 6,5%, anche questo è un dato più forte di quello di ieri. Il totale dei ricoveri scende di 224 persone, dato un po' più debole rispetto a ieri. Noi guardiamo molto ricoveri, terapia intensiva, perché quelli non dipendono dai tamponi. Invece sui decessi, i decessi sono a 85 persone e quindi non stanno calando rispetto a ieri, erano 88, giorno prima 71, 55 martedì, 60 lunedì, 75 domenica. Sono tutta la settimana sotto i 100, questo lo possiamo dire, mentre la settimana scorsa oscillavano tra 110 e 70, però non sono calati in maniera significativa in questi ultimi tre giorni. E infine i nuovi positivi, i nuovi contagiati. Allora, sappiamo che questo dato dipende moltissimo dal numero di tamponi che si fanno. Il dato è alto oggi, 518 contro i 177 di ieri, 320 di mercoledì, 318 di martedì, 200 di lunedì, 300 di domenica, i 400 di sabato. Si torna sostanzialmente al livello della settimana scorsa. La cosa impressionante però di questi contagiati è che più del 70% sono in Lombardia. Attenzione, qui bisogna capire se è perché la Lombardia sta facendo più test, però il dato è impressionante: su 518 casi, 402 sono in Lombardia, cioè il 77,6% del totale. Mi hanno scritto durante la pausa per il GR24 alcuni insegnanti, no? ho premesso che ci sono migliaia di insegnanti che hanno fatto un lavoro egregio cercando di colmare tutti i deficit della didattica a distanza, impegnandosi con gli studenti anche fuori dall'orario, poi ce ne sono alcuni che sostanzialmente sono scomparsi. Sai qual è il problema? Che grazie anche a tutta una impostazione molto sindacale di questi anni della scuola, non c'è nessuna differenza tra insegnante che si presenta due volte o quello che si fa un mazzo così. Stipendio uguale, nessun premio di merito, nessun premio di nessun genere, questo è il problema. Però no, andiamo oltre, andiamo sui mercati, perché me l'hanno chiesto in tanti in questi giorni: ma che film stanno guardando gli operatori finanziari? Allora, è vero che oggi i dati sulla disoccupazione americana sono migliori, nettamente migliori delle attese, come dicevamo in apertura, e che Wall Street va bene, più 3,60%. È vero che la Banca Centrale Europea ieri ha ampliato il suo bazooka, diciamo così, di altri 600 miliardi, soprattutto nel 2021, come acquisto di titoli di Stato. E oggi Milano guadagna il 2,80%, Parigi il 3,70%, Francoforte il 3,30%, Londra il 2,25%, il Dow Jones appunto il 3,60%. Do brevemente i titoli: CNH più 9,80, Biper più 9,70, Saipem più 9,5, Ferragamo più 8,30, Fiat Chrysler più 7%, Banco BPM più 6,70, Eni più 6 come Leonardo, Pirelli più 5,40 come UbiBanca. Il 5% lo guadagna anche Tenaris ed Exore e anche Azimut. Negativa di Assorin, meno 4,70, Amplifon meno 2,80, Terna meno 1,60. Però al di là della giornata odierna, come riporta giustamente oggi Moria Longo sul Sole 24 Ore, se guardiamo cosa è successo negli ultimi giorni e partiamo da Wall Street, dove tra l'altro l'America è sconquassata anche dalle manifestazioni dopo l'omicidio di Floyd, ma insomma Wall Street ha vissuto i 50 giorni migliori della sua storia. Le borse europee dai minimi di marzo hanno fatto più 32% Milano, più 47% Francoforte. Il Nasdaq ha toccato oggi il nuovo massimo storico. Wall Street è a pochi punti, 3 punti percentuali dal suo record storico, e così come Francoforte. Allora, la domanda molto semplice che giro a Moria Longo, così impara a scriverne sul Sole 24 Ore. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. Che film stanno guardando le borse? Perché tutte le prospettive che guardiamo, la Bundesbank oggi ha detto il PIL tedesco farà meno 7,2%, la Banca Italia ha detto il PIL italiano farà tra meno 9 e meno 13, e via così. Qual è il film? Dove abitano gli operatori finanziari? Allora, gli operatori finanziari abitano in un mondo pieno di liquidità. Le banche centrali hanno stampato tanta liquidità in questo periodo come non avevano mai fatto prima. Tutte le banche centrali di tutto il mondo, tutte contemporaneamente. Questo cosa significa? Che è arrivato un sacco di liquidità sui mercati finanziari, gli investitori hanno tantissimi soldi quindi, che devono in qualche modo impiegare, investire. Dato che il mondo obbligazionario offre rendimenti bassissimi, ci sono 12.000 miliardi di titoli di Stato o titoli obbligazionari che hanno rendimenti negativi. Tutti gli altri hanno rendimenti molto bassi, se non quelli molto rischiosi. E quindi il bacino, diciamo il posto più naturale dove andare a investire sono le borse, quindi è arrivato un flusso di capitale fortissimo sui mercati azionari privilegiando i settori che sono ritenuti meno colpiti dal Covid, quindi per esempio la tecnologia, quindi per esempio il settore sanitario, farmaceutico e così via, e quindi c'è stato un forte afflusso di capitali in quel mercato lì che ha creato appunto un fortissimo rimbalzo, andando ben oltre quello che è la realtà economica, perché è vero che le borse scontano, guardano al futuro, è vero che la risposta delle banche centrali è senza precedenti, la risposta anche dei governi è senza precedenti, basta vedere anche il piano tedesco annunciato ieri da 130 miliardi, è anche vero però che lo sconquasso economico creato dal coronavirus è gigantesco, anche questo è senza precedenti, quindi da qui ad arrivare all'euforia delle borse ce ne passa. Ci sono alcuni segnali incoraggianti dal fronte economico, oggi è arrivato il dato molto superiore all'attesa sul fronte dell'occupazione negli Germania. Stati Uniti, Stati sono Uniti, mosche sì. Bianche, sono casi, in realtà tutti i dati sì, no, adesso appunto per darti ragione, tra virgolette, è vero che il dato sulla disoccupazione americana è migliore delle attese, ci si attendeva una disoccupazione che salisse al 19%, è scesa dal 14,7% di aprile al 13,3% di maggio, però attenzione, a febbraio era al 3,5%, come dire, la disoccupazione in America tuttora è quasi 4 volte, 3 volte e passa e mezzo quella che era il mese prima, nel mese di febbraio, non è che si può proprio festeggiare. Dal tuo ragionamento però, Moria, sembra quasi che gli operatori finanziari mettano i soldi nella borsa perché non sanno dove metterli. Sì, esattamente, questo cioè la faccia dell'analisi sui fondamentali di bilancio, i fondamentali sono completamente saltati, perché ecco. Da un lato l'economia è a strapiombo, ci si aspetta una ripresa l'anno prossimo, ma innanzitutto bisogna vedere se non tornerà, e speriamo di no, il coronavirus nei prossimi mesi. Gli utili aziendali stanno crollando e ormai più della metà delle aziende, per esempio di Wall Street, non dà neanche più le stime sugli utili aziendali, quindi non c'è neanche più la bussola che solitamente gli investitori non usano. Non fanno neanche calcolare. Il profit warning ormai. Ormai no, non si warning. Fa neanche più quello. E quindi i fondamentali sono completamente stravolti. Poi è un mercato completamente drogato dalle banche centrali che giustamente stanno facendo il loro lavoro, ci mancherebbe, per sostenere l'economia attraverso i mercati finanziari. Però questo sta creando, io non so se chiamarle bolle, chiamarle esuberanza eccessiva, ma in tutti i settori dove le banche centrali stanno mettendo le mani, o sulla borsa dove non mettono le mani ma dove arrivano grandi capitali, si stanno creando grandi distorsioni. Allora, pensare, sì, Basti pensare un esempio, il mercato delle obbligazioni spazzatura negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha iniziato a comprare obbligazioni spazzatura, queste hanno avuto un boom di emissioni e di prezzi fortissimo. Considerate che le aziende spazzatura sono quelle che hanno già un'affidabilità creditizia molto bassa, sono aziende molto indebitate, questo prima del Covid. Con il Covid ovviamente avranno fortissime difficoltà a riprendersi, quindi gli investitori vanno a mettere i soldi in un settore veramente ad altissimo rischio, ma solo perché la Fed ci ha messo le mani tutti vanno lì a comprare. Quindi è una fortissima distorsione del mercato, vedremo dove ci porterà. Ecco, tu stavi già paventando il rischio bolla, nel senso che quando vedi questi rally a fronte di previsioni economiche mai così brutte, neanche nel 2009, quindi mai così brutte dal dopoguerra, ti chiedi quando è che la realtà si ricongiungerà con il film della finanza, o meglio con così la speculazione. Non è neanche speculazione, è dire mettiamo i soldi lì perché dalle altre parti rendono poco, e lì sappiamo che purtroppo l'adesione tra il mondo della finanza e economia reale avviene quando scoppia una bolla e a quel punto si sgonfia. Te lo chiedo perché una volta si diceva, c'era un detto in inglese, sell in May e go away, cioè vendi a maggio e vai via, che giustificava molte volte le prese di beneficio di maggio. Ora, visto che maggio e aprile ce li siamo giocati, non sarà per caso un sell in June e poi non mi viene la rima, cioè che stanno spostando in avanti quello che era un atteggiamento di andare a vendere prima, diciamo, e far profitto dopo la corsa di metà anno? Allora, proprio ieri era uscito un articolo sul Financial Times che diceva proprio questo, cioè prendeva spunto da alcuni hedge fund che stanno iniziando a scommettere sul nuovo ribasso delle borse. Tanti chiamano questo rimbalzo fortissimo che c'è stato dai minimi di marzo un rimbalzo in una fase comunque ribassista dei mercati. Io non lo so, non ho la risposta, perché da un lato è vero che l'economia reale è quella che è, la vediamo tutti dai dati che escono, è anche vero però che il sostegno delle banche centrali c'è e ci sarà anche nei prossimi mesi. Quindi il mercato può girare, però... Ma guarda, io spero come scrive un ascoltatore, sell in June and see you soon, non male. Però dico, spero che abbiano ragione i mercati, cioè spero che in realtà loro si posizionino lunghi, come si dice, cioè non sul settimana per settimana, giorno per giorno, perché vedono in realtà una manovra talmente massiccia da parte delle banche centrali e degli stati da addirittura avere effetti più positivi di quanto noi non vediamo. Dico all'ascoltatore, diciamo, quindi state dicendo che i soldi delle banche centrali vanno alle borse? No, Moria Longo, però te lo faccio non voglio essere tuo interprete. Le banche centrali stanno stampano moneta e comprano titoli finanziari, non in borsa, non azioni, ma comprano obbligazioni, titoli di Stato. Negli Stati Uniti comprano obbligazioni legate ai mutui, comprano obbligazioni aziendali sia in Europa sia negli Stati Uniti, addirittura negli Stati Uniti obbligazioni aziendali spazzatura, quindi con rating bassi. Non investono in borsa, però è anche vero che già stanno gettando una grande quantità appunto sui mercati finanziari. Sì, ma poi quello che tu dicevi era molto chiaro, nel senso che quando le banche centrali tengono i tassi praticamente a zero, investire in obbligazioni rende pochissimo, in alcuni casi ha rendimento negativo, e quindi crei liquidità perché compri titoli di Stato. Questa liquidità non è che sono le banche centrali a investire in borsa, ma gli investimenti non sanno dove andare perché dalle altre parti rendono zero o giù di lì, e quindi vanno in borsa. L'ho detto peggio di te, Moria, ma era per chiudere. Vedremo, se mi stanno arrivando tutti insieme di Sell in June and Fly to the Moon, vabbè, vedo che gli ascoltatori non hanno perso l'ironia, grazie anche a Moria Longo. Andiamo invece su un tema molto a che fare con l'economia reale, non quella che guardano necessariamente le borse, e mi riferisco alle nuove regole, ai moduli, e purtroppo ci sono anche nuovi moduli per chiedere il famoso prestito bancario, soprattutto quello garantito al 100% dallo Stato. Perché? Perché la legge che converte il decreto liquidità rivisto entrerà, da quello che abbiamo capito, in vigore lunedì, e ci sono un paio di novità, una soprattutto che dovrebbe servire a snellire le procedure. Tra le novità, infatti, al di là del tetto per per il 100% del prestito garantito dallo Stato, che sale a 30.000 euro, ma deve essere sempre il 25% del fatturato al massimo, si potrà allungare la durata del prestito non più fino a 6 ma fino a un massimo di 10 anni, ma se ho ben capito l'elemento più importante è la cosiddetta autocertificazione rafforzata. Laura Serafini del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, l'autocertificazione rafforzata, al di là del nome, è l'elemento che dovrebbe eliminare uno degli ostacoli, cioè i responsabili bancari di credito, direttori di filiale, avevano paura e hanno paura di incorrere in responsabilità penali qualora l'azienda a cui prestano questi soldi dovesse un domani fallire e qualcuno potesse accusarli di non avere vigilato sul soggetto a cui prestavano i soldi. E questo bloccava molte erogazioni. Da lì potrebbe arrivare un po' più di fluidità, Laura? Sì, no, il motivo per cui è stata fatta questo diciamo, rafforzamento dell'autocertificazione è esattamente questo, anche se attenzione, bisogna distinguere tra quella che è la manleva vera e propria, di cui avevamo già parlato con te in altre puntate, che riguarda la legge fallimentare e l'esame dal reato di concorso in bancarotta. Qui il tema è sollevare le banche dalla responsabilità penale anche legata al fatto che non è stata fatta l'analisi del merito di credito, e di cui ha parlato anche il governatore della Banca d'Italia nelle considerazioni finali e ha riconosciuto che questo problema c'è. E quindi questo, sostanzialmente, io vado in banca, dico che autocertifico in maniera appunto rafforzata lo stato di salute della mia impresa, questo solleva, diciamo, dalla responsabilità chi deve, parliamo dei prestiti garantiti al 100%, quelli quindi... No, qui ti correggo. Ah. Questo tema del rafforzamento della novità, una delle novità degli emendamenti fatti, vale anche per gli altri. Tutti i prestiti, anche quelli della SACE. Okay. Quindi andrà ad accelerare le procedure bene. In caso lì, vale per bene. Quindi vale anche per quelli poi da fino a 800.000, sempre con garanzia al 90%, fino a 5 milioni, sempre con garanzia al 90%, e poi quelli sopra i 5 milioni con garanzia SACE. Esatto. Ci saranno nuovi moduli oppure insomma lo snellimento riguarderà anche la modulistica, diciamo così? No, ahimè no, perché la legge introduce una serie di cambiamenti tra cui adesso non sono più i ricavi ma è il fatturato la quale è il 25%, quindi lì potrebbero anche cambiare gli importi, tra l'altro. Quindi il modulo va rifatto perché sono cambiate molte cose, perché uno nell'autocertificare dovrà autocertificare molte altre cose in più. Però a quel punto non ci saranno più scuse per chiedere il documento aggiuntivo. A quel punto, come dire, questo dovrebbe far scadere tutte quelle resistenze di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni. Perché? Perché la banca a questo punto deve semplicemente essere un soggetto che eroga un prestito che è coperto dallo Stato, non deve più avere degli oneri a suo carico. Quindi in teoria, perché come dire, siamo stati abituati a vedere poi situazioni di ogni genere, dovrebbe essere tutto più veloce, però purtroppo bisognerà ricominciare il giro, perché anche chi ha già chiesto il prestito, ecco, questo lo chiederti. E vuole aumentare okay. la soglia. Cioè se l'hai già ottenuto non fai nulla, giusto? Eh no, il tema è proprio quello lì. Se tu hai già ottenuto, ma puoi avere invece che 25.000, 28.000, devi rifare il giro tutto. Dal via, come dico io, il Monopoli, e rifai il nuovo modulo e la banca riavvia la pratica, la rimanda al fondo. Il fondo, qui bisogna anche capire il fondo come intende gestire tutta questa parte, però potrebbe dover ampliare la garanzia e ritornare indietro. Però l'unico vantaggio è che a questo punto tutto dovrebbe essere molto più veloce. Però se io che ho ottenuto 25.000 euro voglio mantenere quello, non voglio altri soldi, non devo rifare la pratica, cioè quella è già andata. Assolutamente no, quello è... No, anche perché sono arrivate 523.000 domande al fondo di garanzia per un importo complessivo di 24 miliardi e mezzo. Di queste la stragrande maggioranza, cioè su 523.000 a 520.000, sono per la parte dei 25.000 euro, quindi con la copertura al 100% dello Stato. L'importo finanziato è pari a 9 miliardi e 740 milioni. Qualcuno mi scrive, ma chi controlla le autocertificazioni? Guardi, l'autocertificazione, se lei la dichiara il falso, va nel penale, come già, non è uno scherzo dire nella mia azienda è seria e poi scoprire che hai mentito sulla tua azienda, come sanno tutti gli italiani che hanno dovuto fare le autocertificazioni durante il Covid. Vorrei farvi ascoltare però e ringraziare anche Laura Serafini. Scusami Laura, prima di salutarti, lunedì diventa legge? Sì, insomma, è atteso, diciamo, questi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La brutta notizia è che lunedì il modulo nuovo non sarà pronto, bisogna aspettare qualche giorno, però la legge dovrebbe esserci. Sì. C'è la legge ma non il modulo. Allora, nel ringraziare Laura Serafini, vi voglio leggere, qui purtroppo c'è poco da scherzare, ma cosa mi ha scritto un ascoltatore, e ho detto che l'avrei letta, lui è il legale rappresentante della HBS Automotive SRLS. Ha chiesto 25.000 euro, è una ditta che commercializza automobili, ha iniziato l'attività nel 2016 con sede legale in provincia di Ascoli Piceno. Presenta richiesta di finanziamento di 25.000 euro alla banca del Piceno Credito Cooperativo dopo che il suo commercialista verifica che lui possiede i requisiti necessari. Qualche giorno dopo la banca chiede la documentazione ulteriore che lui manda. Lui precisa che né la sua società né lui stesso hanno iscrizione negativa al CRIF, non hanno debiti, prestiti in essere, insomma sono titolari solo di un conto corrente su base attiva e sempre molto regolare. Il 7 maggio lo chiamano dalla banca del Piceno, Credito Cooperativo del Piceno, e dicono: guardi, la sua richiesta non può essere accettata perché non ha merito creditizio, e quindi per evitare che venga bocciata le consigliamo di ritirarla, che è già strana come procedura, bocciala e basta. E alla richiesta di ulteriori spiegazioni gli viene detto che lui aveva percepito un messaggio sbagliato, che quello che dice il decreto a loro non interessa. Allora, magari noi cercheremo anche il responsabile del credito della banca del Piceno Credito Cooperativo, perché, come avevo promesso, iniziamo a fare anche i nomi e cognomi delle banche che accampano, cioè, se devo credere a lui, scuse inaccettabile, e non puoi dire che il decreto non ti interessa. Comunque magari lunedì parliamo anche con la banca del Piceno Credito Cooperativo, giusto per capire cosa sta succedendo. Intanto da Sebastiano Berisoni le auguro di un buon fine settimana, per la prima volta non da passarsi rigorosamente a casa ma neanche nella propria regione. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.